19 maggio, prima parte. Allora, oggi seguiamo qualche pezzetto di questo libro di Catherine Hales, che si chiama How We Became Posthuman. How We Became Posthuman. È un libro che io sto aspettando da anni di pubblicare in italiano, ma che non mi riuscirà, penso mai, perché è stato già acquistato da un altro editore che non si sa chi è, e quindi non lo posso fare io. Adesso sto facendo il libro successivo di questa signora. Avrei preferito fare questo perché ovviamente... Allora, perché seguirò un po' questo libro? Perché tra le cose che ho letto è quello che fornisce la più interessante ricostruzione della nascita e dello sviluppo del computer della cibernetica. La cibernetica è implicata in questo discorso perché con la nascita di questa nuova scienza, insomma, di questa nuova disciplina scientifica, venne messo a punto, cominciò la messa a punto di un nuovo concetto scientifico, che però ben presto si espanse, si allargò a molti altri campi della cultura, e cioè il concetto di informazione. La nascita di questo nuovo concetto di informazione, la nascita di questo nuovo concetto di informazione è importante, direi anzi cruciale, per la messa a punto di un nuovo paradigma, non solo scientifico ma culturale più in genere, sugli esseri artificiali. Ora, chiaramente, l'idea del robot come personaggio, come diciamo entità della fantasia, sia pure da un punto di vista, come dire, con qualche addentrato scientifico, è ovviamente più vecchia, cioè diciamo risale agli automi settecenteschi, a tutti. Però non a caso, diciamo, nella fantascienza anche abbiamo visto che i veri e propri robot cominciano a venire fuori tra gli anni 30 e 40, e c'è una quasi contemporaneità, insomma, cioè nello stesso periodo, negli stessi decenni, l'immaginario, quindi la diciamo letteratura, scopre dei modi nuovi di mette a punto, mette a fuoco meglio questa diciamo figura, no? Vi ho detto che prima ancora di Asimov c'è Binder, ma insomma tra Binder e Asimov negli anni 40 c'è la messa a punto di questo. Ora, sono esattamente gli stessi anni nei quali nasce la parola cibernetica. Non c'era prima del 1949-50, insomma, no? 48-49-50. Questa parola cibernetica, la parola cibernetica è un neologismo, un neologismo coniato sulla parola greca, ma la parola greca non c'è nel greco classico, non c'era nel greco moderno. Coniato, cioè inventato dal personaggio che ha dato impulso a questa nuova branca della scienza, della tecnoscienza, che si chiama Norman Wiener. Allora, Wiener non c'è la lavagna, si scrive alla tedesca, si pronuncerebbe Wiener, perché si scrive W-I-E-N-E-R. Norbert, io l'ho sempre pronunciato alla tedesca, ma insomma probabilmente l'ho pronunciato all'inglese, perché lui era già trasferito. Quindi Wiener alla tedesca o Wiener all'americana, Norbert Wiener. Norbert Wiener, che è un fisico, che aveva lavorato per l'esercito americano, se ne è andato via dalla Germania, credo, sì, all'epoca del nazismo, negli anni 30, dopo l'avvento del nazismo, si era un po' dopo, non ricordo l'anno, insomma, preciso. E lì aveva lavorato per l'esercito americano nel corso della Seconda Guerra Mondiale. E il problema che si erano posti sia gli Stati Uniti che la Germania nella Seconda Guerra Mondiale era quello di trovare dei meccanismi, di trovare dei dispositivi che fossero in grado di guidare dei proiettili, quindi diciamo dei vettori contenenti delle cariche esplosive, guidarli sull'obiettivo prescelto con un minimo di autonomia. Vuol dire, vabbè, ci sono dei cannoni, si punta un cannone, si punta la cosa. Allora, questo ovviamente funziona quando siamo entro la gettata, entro l'ambito, entro il range di, diciamo, gettata di un cannone. Se vogliamo mandare delle bombe su Londra, da Berlino, ovviamente con un cannone non esiste nessun cannone in grado di gettare un proiettile da Berlino. Allora abbiamo due diverse possibilità, le stesse che ci sono oggi più o meno. Carichiamo un aereo di bombe, mandiamo l'aereo su Londra e lì scarichiamo le nostre bombette, cosa che attività che nella Seconda Guerra Mondiale venne fatta cioè ancora più su scala ancora maggiore che nella prima, e poi ovviamente tutte le guerre successive, come ben sapete, compresa quella del Kosovo e compresa quella israelo-palestinese di questi anni, per esempio, sapete che i poveri cristi di Gaza costantemente ogni tanto li bombardano. Questo è un modo. L'altro modo è quello di mandare delle cose che oggi chiamiamo razzi o missili, vero? I primi missili furono quelli che vennero sperimentati dalla Germania su Londra, si chiamavano V2, e furono, cioè, in questo caso, non, come dire, il principio non è quello di un cannone, cioè un cannone carichi un proiettile che è una cosa inerte, che non c'è un cazzo, questo c'è una certa spinta, e più in là, cioè, di dove deve, no? Cioè, c'ha una traiettoria prestabilita. Il vento lo può al limite, diciamo, deviare di poco, ma insomma nei calcoli balistici si tiene conto di questo. Un missile invece è un dispositivo dotato di un motore autonomo, quindi non c'è nessun cannone che, diciamo, lo tira, viene acceso, viene azionato il motore, e questo motore gli fa percorrere una certa distanza. Ovviamente questo... Ogni missile deve avere dentro di sé un dispositivo anche molto rotto, anche molto, come dire, primitivo, ma tale da poter garantire chi ha mandato il missile che il missile va a finire esattamente nel posto di volo. Allora, siccome il viaggio di un missile però è normalmente più lungo di quello di un proiettile di cannone e necessita di una maggiore autonomia, per esempio potrebbe essere che gli vengono messi degli ostacoli sul suo percorso, o che c'è qualcuno che fa salire un aereo e tenta di distruggerlo, di farlo scoppiare in volo, insomma varie cose. Per cui sarebbe stato utile avere dei meccanismi di, diciamo, controllo di questo, quindi dei dispositivi automatici che fossero in grado di registrare eventuali eventi esterni perturbativi alla tranquilla marcia del missile e fare in modo che questo missile cambiasse diciamo traiettoria in corso d'opera mentre stava andando. Le V2 tedesche erano dotate di alcuni di meccanismi di corsivo ma molto molto rozzi, per cui per esempio non erano in grado di sfuggire ad un aereo se questo le intercettava e le colpiva prima. Certo, erano molto grosse, eccetera, eccetera, era difficile colpirle con le mitragliatrici dell'aereo, ma insomma con delle armi più grosse si poteva fare. Ciò nonostante, le V2 furono uno degli eventi più traumatici della Seconda Guerra Mondiale, perché comunque causarono distruzioni a Londra in maniera insomma generalizzata. C'è un romanzo americano scritto molti anni dopo che si chiama Gravity's Rainbow di Thomas Pynchon, l'arcobaleno della gravità, di cui una parte è ambientata nella Londra della Seconda Guerra Mondiale, e c'è un tipo che cerca di prevedere la traiettoria di queste V2, cioè dove cadranno queste V2. L'idea è presa da un libro di Philip Dick di molto tempo prima, che si chiama Time Out of Joint, però insomma Pynchon l'ha presa da lì l'idea. L'autore di Gravity's Rainbow invece è Thomas Pynchon. Quindi insomma, per dirvi che fu un episodio che ha avuto. Quindi molte delle V2 caddero fuori bersaglio, evidentemente, però già quelle che caddero lì, che arrivarono sull'obiettivo a Londra, furono sufficienti per gettare, cioè Londra fu insomma, come dire, colpitissima da questa cosa. Inghilterra e Stati Uniti, però proprio sull'onda di queste V2, per quanto riguarda gli USA non erano colpiti, ovviamente, perché non ci fu guerra sul loro territorio, però insomma erano comunque colpiti dal fatto che Londra era... E quindi sia l'Inghilterra che gli Stati Uniti quindi cercarono di rispondere, ma non ci diciamo, riuscirono mai durante la guerra, però cominciarono già durante la guerra ad avviare degli studi per vedere se fosse possibile costruire degli altri razzi, degli altri missili, ripeto, allora diciamo, non c'erano i missili poi ci sono stati nel dopoguerra, no? Missili terra-aria, aria-aria, mare-aria o mare-terra, ma sono tutte robe di dopo gli anni insomma, 50. Negli anni 40 questa cosa ancora diciamo, non c'era. Però si cominciarono ad avviare degli studi per costruire delle macchine di questo tipo, cioè delle macchine relativamente autonome, che fossero in grado di che avessero dentro di sé dei dispositivi in grado di diciamo regolare il loro comportamento in viaggio, in modo da raggiungere l'obiettivo anche in caso di eventi perturbativi. Norbert Wiener fu una delle persone che diciamo lavorarono a questo campo di studi per l'esercito inglese, americano, scusate, l'esercito statunitense. Il secondo campo bellico di indagini, di studi che ha rilevanza per il nostro discorso, invece si svolge più in Inghilterra che non negli USA, però anche negli USA naturalmente, ed è la necessità per le forze armate occidentali, insomma, cioè inglesi e americane, i francesi erano stati fatti fuori in breve tempo, quindi c'entravano più poco, non c'entravano più. In pratica, quindi inglesi e americani, di possedere un sistema di comunicazione segreto efficiente, cioè che non potesse essere scoperto dai tedeschi, e al contrario riuscire a scoprire il sistema dei tedeschi o dei giapponesi in Oriente. In particolare fu la seconda cosa che fu più al centro dell'attenzione. I tedeschi avevano costruito un sistema di criptazione chiamato Enigma, una specie di proto-computer, potremmo dire, non c'erano ancora i computer veri e propri. Un signore inglese, Alan Turing, aveva già negli anni 30 costruito il meccanismo teorico di come si fa un computer, e questa si chiama macchina di Turing. La macchina di Turing è una macchina teorica, ipotetica, il cui modello però è già enunciato in un saggio di Turing degli anni 30, intorno al 35, non ricordo la cosa. Allora, i tedeschi hanno questo sistema molto efficiente, molto forte, molto potente, ma gli inglesi, e con questo sistema hanno potenziato la loro flotta, hanno costruito molti sottomarini che già di per sé sono una cosa che stanno sott'acqua, quindi non si vedono, eccetera, eccetera. Però con il fatto che le loro comunicazioni non sono intercettabili, o se sono intercettate, hanno un sistema di criptazione, l'Inghilterra, che l'Inghilterra, come voi sapete, è quella che ha subito nel teatro europeo il più grande sforzo contro la Germania nazista, c'era praticamente solo lei, c'era solo l'Inghilterra, gli Stati Uniti con le forze di terra arrivano dopo, poi in gran parte dal 40 al 43 sono in gran parte impegnati contro il Giappone nel teatro di guerra orientale. Quindi per i tedeschi, per gli inglesi, che hanno tradizionalmente un punto di forza sul mare, perché hanno una flotta migliore, possiedono anche loro molti sommergibili, eccetera, ma questa loro preponderanza militare sul mare rischia di essere messa in forse dallo sviluppo delle armi tedesche. E in particolare da quello che quindi è fondamentale, è essenziale per gli inglesi decrittare, riuscire a capire qual è la chiave con la quale i tedeschi si mandano le cose, e quindi loro costruiscono un gruppo di scienziati, prevalentemente in Inghilterra, di cui fa parte lo stesso Turing, ovviamente perché era una delle maggiori, ma anche molti altri. E questi qui costruiscono il progetto Colossus, il quale è il primo diretto progenitore dei computer, insomma. Allora, sono tutti e due i campi belli, tutte e due tematiche che hanno a che fare con la guerra. Abbiamo detto, quindi, da un lato il desiderio di avere dei dispositivi a bordo di proiettili autonomi, chiamati razzi o rockets o missiles, razzi o missili, i quali siano in grado di autoregolare, autogestire la rotta, la traiettoria di questi missili. Ci vogliono dei dispositivi che dimostrino un po' di intelligenza in qualche modo, cioè capire quale fattore mi perturba e cambiare il mio comportamento per sfuggire a una bomba nemica. Primo. Secondo, una cosa a cui molti di me si dedicano anche, cioè decrittare il codice. Anche i bambini lo fanno, no? Costruire lingue segrete, cose segrete, no? Un'attività, sono due cose diverse, però tutte e due cospirano, vanno verso l'idea, e da qui nasce l'idea di una macchina, di un dispositivo che sia in grado di elaborare autonomamente che cosa doveva elaborare, cosa c'era in comune tra i dispositivi che dovevano guidare la traiettoria dei missili e i dispositivi che dovevano riuscire a capire da un insieme di simboli senza senso qual era il senso, cioè qual era l'Alessio che sostituiva a dei simboli altri simboli, lettere diciamo della partita. Cosa c'era di comune? Ecco, la cosa che c'era in comune venne, già evidentemente loro lo sapevano, grazie a quelli che lavoravano ai progetti diciamo di autonomi, sia quelli che lavoravano al progetto di decrittazione dei codici tedeschi, lo sapevano già, ma la cosa venne scritta nero su bianco nel 1949 da due matematici americani, Claude Shannon, accidenti che non c'è la lavagna, Claude Shannon, S-H-A-N-N-O-N, S-H-A-N-N-O-N, Shannon, Claude Shannon, e non mi ricordo mai il Shen, S-H-A-N-O-N, qui, confondo le allora, Shannon, Claude Shannon e Weaver, Weaver quello che saluta, Weaver, il nome di battesimo di questo non so, W doppio, e A, W doppio, e, ma no, I, no, E, A, E, no, E, E, A, arriva, qui va. Allora, questi due, Shannon Weaver, scrivono un libro che esce nel 1949 che si chiama The Mathematical Theory of Communication. La teoria matematica della comunicazione. The Mathematical Theory of Communication. 1949. Il vostro professore ha 5 anni quell'anno, ma non sa perché, non sapeva molti altri. 1949. Perché questo libro è importante? Perché contiene per la prima volta la definizione matematica del nuovo concetto sulla base del quale si formerà queste cazzo di macchinette qua, le quali metteranno insieme il modello teorico elaborato da Turing negli anni 30, con la importantissima mediazione di un altro, diciamo, tedesco, von Neumann, che costruirà l'architettura, cioè costruirà, implementerà, si dice con termine tecnico, implementerà il modello di Turing e lo trasformerà in una concreta, nella concreta architettura di una macchina, sarà von Neumann che fa questo lavoro, ma questi due signori, Shannon e Weaver, costruiranno il concetto in base al quale questa cosa funziona. Questo concetto non è scritto nel titolo di questo libro, ma questo libro parla esattamente di quello, di una cosa chiamata informazione. Information. Informazione. È il concetto, dunque, la teoria matematica della comunicazione in realtà è un libro che spiega una teoria, spiega un nuovo concetto matematico, quello di informazione. Io mi rendo conto che vi ascolto, voi dite, ma tu sei quale sappiamo già tutto, lo so, adesso sappiamo già tutto, non certo, perché adesso noi sappiamo. L'uso che noi facciamo oggi del termine informazione è diversissimo da quello che se ne vede. Se voi di la parola informazione detta oggi e la parola informazione detta nel 1950 aveva un senso diverso. Oggi noi sappiamo che tendenzialmente è tutto informazione, o crediamo che sia così, o ci illudiamo che sia, diciamo così. Non era la stessa cosa nel 1950, 1940 e meno ancora nel 1930. Comunque, cioè, quando ero bambino io, la parola informazione è un'altra cosa. Ha cambiato il significato in base a questo libro, che ovviamente viene pubblicato nel 49, ma insomma ci vogliono un po' di anni perché le cose entrino a mano nel, diciamo, all'inizio. Il nuovo concetto di informazione è prerogativa solo dei tecnici, di quelli che costruiscono queste macchine o di quelli che scrivono i programmi. Però poi a poco, già che ci sono ve la dico tutta, insomma, il grosso passo successivo per l'estensione del concetto di informazione a campi diversi, anche da quelli a cui Shannon e Weaver tentavano di applicarlo, ovviamente si ha nel 1954. Cosa succede di importante in quell'anno lì? Vediamo chi. 1954. Due persone scoprono una certa cosa e poi erano il premio Nobel diversi anni dopo per averla scoperta, due biologi. No, penicillina è il 50 negli anni 40 di danno. La parola teoria. Biologia. La struttura del DNA. La struttura elica del DNA viene scoperta da Crick e Watson. Crick, C-R-I-C-K. Crick e Watson scoprono il modello elica del DNA nel 1954. La scoperta della struttura del DNA, quindi la scoperta di come è fatto, di come è sempre il termine architettura, dell'architettura della molecola, questa strana molecola del DNA basata su quattro basi, quattro sostanze chimiche differenti, A, T, C, G, come cazzo si chiama, non mi fate dire i nomi, non mi ricordo mai, fate le figuracce, quindi non li dirò. A, T, C, G, però le cose non ti si. Disposte in quel modo lì a coppie, ma questa cosa c'entra con l'informazione? Questo è il passo attraverso il quale si comincia a pensare che addirittura i processi biologici, cioè i processi della vita, siano processi basati su questo concetto dell'informazione. Cosa fa il DNA? Cosa fa? Qual è l'azione di questa molecola? Se ci dimentichiamo per un attimo del fatto che ogni tripletta di queste questa cosa è noiosa, tra l'altro, che sorride quando parla uno, Se voi prescindete dal fatto che sono le triplette, che non mi ricordo bene come stanno le cose, perché non sono un biologo, un tappino e queste cose qua, sono le triplette che codificano le proteine, giusto? Comunque ci vogliono quei 10 minuti per capire, è il concetto, sì, sono le triplette. Ogni tripletta di queste cose ne ha codifica una della proteina. Allora è chiaro che c'è DNA da solo non fa un cazzo, no? Cioè, perché poi la cosa importante sono le proteine che sulla base di una certa struttura del DNA vengono create, come dicono. Sì, ma queste non sono delle proteine, queste sono le quattro cose che sono formate. I due nomi? Atinina. Poi c'è guanina. E la T qual è? Non sono quelle le proteine sono molecole molto più complesse, però vengono create sulla base di certi particolari tratti di questo, diciamo, DNA. Quindi il termine informazione già compare nell'articolo uscito nel 54, appunto, a firma Crick e Watson, in cui si rende nota questa scoperta. L'anno in cui ha preso il Nobel non me lo ricordo, ma come sono molti anni che ho preso il Nobel, però l'hanno preso per questa scoperta, una delle poche volte che il Nobel ci detta, ma il Nobel scienza rispetta molto spesso. a volte sbagliano pure lì però. Per esempio Einstein non ha mai preso il Nobel per la teoria della relatività, ha preso il Nobel per gli articoli scritti prima, nel 1905, da cui ovviamente tutto sta lì in nuce, però non ha mai preso per la teoria della relatività, pensate un po'. Quindi, diciamo, l'importanza concettuale di questa scoperta del teorema DNA, anche la sua insomma, sfiga, perché non è detto che ci abbia attuato sempre bene, è che la scoperta della struttura del DNA rende possibile interpretare la vita come un processo di trasferimento di informazioni da una parte all'altra, quindi è sempre l'informazione che conta, sarebbe sempre l'informazione. Adesso, ovviamente è possibile sottoporre a critica questo processo di questo concetto di informazione e la sua espansione, diciamo anche ipertrofica, già se uso il termine ipertrofica, capite che non mi piace poi tanto a me questa cosa dell'informazione, quindi possiamo criticarla questa idea dell'informazione e possiamo ipotizzare che non ci basta capire poi tanto, o che cerchi di farci capire troppo, o che cerchi di ridurre troppo a una sostanza ultima dei processi che sono più complessi e che forse non saranno poi questa sostanza ultima. Però è indubbio, e adesso stiamo cercando di ricostruire un po' i passaggi diciamo concettuali della nascita di una nuova di un nuovo o di nuovi paradigmi scientifici e culturali generali, dobbiamo riconoscere che il concetto di informazione sta alla base di molti di questi processi, unifica dei campi che apparentemente sono molto lontani tra loro, come quello della nascita di dispositivi, chiamiamoli tra virgolette intelligenti, in grado di autogestire certi modi di organizzare le informazioni appunto e di creare comportamenti in certe macchine che di per sé sarebbero brute e stupide come i missili, e dei campi invece in cui si tratta di spiegare come gli esseri viventi nascono, crescono, si sviluppano e fanno quello che fanno. Benissimo, entrambe queste preoccupazioni, cioè diciamo l'idea di costruire delle nuove macchine, chiamiamole intelligenti, e spiegare in maniera nuova il comportamento di organismi, di dispositivi già esistenti come gli esseri viventi, in realtà sono alla base della nascita della cibernetica. La cibernetica vuole fare entrambe queste cose ai suoi inizi. Non abbiamo detto da che cosa deriva cibernetica. Cibernetica deriva da una parola greca che è Kubernetes, scritto Kybernetes. Che cosa vuol dire Kybernetes? Vuol dire timoniere, vuol dire colui che governa la nave, una nave. La parola Kybernetes c'è già in Omero. C'è già nelle... è un neologismo che deriva dalla parola greca Kybernetes, c'è anche un verbo, credo, se non mi ricordo male, che vuol dire governare, è più alto, però questo non mi ricordo. Comunque, questa parola greca Kybernetes è una parola, è presente in Omero, è presente in Apollonio Rodio, perché parla delle argonautiche, quindi parla di Argo, è la nave Argo, è una nave che aveva Non c'è nell'Eneide di Virgilio, perché l'Eneide di Virgilio è scritta in latino e non in greco, ma c'è il timoniere, sai che non mi ricordo come si dice in latino timoniere? Nauta. No, perché secondo me non hanno. In latino non c'è una parola esatta per dirlo. Vocabolario, italiano, latino, vedi che c'è. Nauta che vuol dire marinaio in generale. Comunque è il più famoso timoniere, sapete chi è il famoso timoniere dell'Italia antica? È il timoniere della nave di Enea, che si chiamava, dai che lo sapete, c'è un capo in Sicilia dedicato a lui, dove si pescano i tonni. E nell'entro l'animalista. E nell'entroterra dove si coltiva il pomodoro, il pomodorino. E capo Palinuro, dai. Palinuro era il, perché è così famoso? Perché Palinuro si addormenta una volta mentre deve, di notte, mentre deve guidare la nave, si addormenta e casca in acqua, evidentemente, perché stando sulla cruda, sulla poppa lì dove c'è, allora casca giù, ed è per questo che era. Questo è morto, cosa? Muore, però poi c'è una storia che non so quali lei o quali cose. I lei fanno, no, non fa ridere, ma gli danno una roba o lo fanno entrare qualcuno, se lo piano, non se lo scopano come ha fatto, no, come faceva Zeus con tutte, ma anche con i maschietti, perché Ganimede se lo... I due coppieri degli dei, la femmina si chiama Ebe, il maschio si chiama Ganimede. Ganimede è un povero ragazzino interpretato da Zeus. Quando i maschi sono piccoli, nella cultura greca sono equivalenti alle femmine, quindi non c'è nessun pregiudizio anti-omosessuale per essere greci. Si scopavano donne e ragazzini piccoli, purché sotto i 15 anni, senza nessun problema. Pedofilia. Cosa? Pedofilia. Brava, pedofilia, esattamente. La cultura che è classica è una cultura nella quale non c'è il reato di pedofilia, anzi la pedofilia è un comportamento approvato e tutti sono contenti, perché è uno dei modi... Passare il sapere. No. Esatto, bravo. Cioè è una delle tappe del processo di maturazione di uno giovane, di un ragazzino, è quella, perché se farà l'amore con che uno... Che pretesti, cioè. Che pretesti, è brava, che pretesti che usavano. Noi adesso ci fa così. Ma i dialoghi di Platone, secondo voi, cioè Socrate, che cosa fa? Cioè, come tutti questi, si scoprava i suoi allievi, certo. Fedo, si scopre tutti quanti. Cioè, non c'è scritto dentro i dialoghi, certo. Ma è implicito, cioè è del tutto, diciamo, normale. No, questo è sempre per dirvi che vedete la relatività delle culture. Cioè, non è che la pedofilia non è... L'antipedofilia non è un universale che fa schifo a tutti, no, cioè fa schifo a noi, giustamente, per una serie di cose, ma non c'è, ci sono altre culture in cui è totalmente ammessa. Va bene, allora gli fanno qualcosa, dopodiché, parliamo sempre di Palinuro, hanno chiamato il capo al cui largo, quando la nave di Enea, che non mi ricordo come cazzo si chiama, quando passa di lì, quando è già arrivato e sta andando verso il Lazio, no? Fa quello che combinerà, quello che combinerà Enea. Allora, vi ho detto le cose fondamentali, sì, più o meno. Allora, Novesvine prende questa prova greca Kubernetes e conia un neologismo inglese, Cybernetics, la K diventa C, la Y rimane Y, Cybernetics, per questa è la ragione per cui io non scrivo Cyberpunk con la Y. Che sono già la parola che era cibernetica, io sono la lì, io potevo dire che le faccio sono la nota lì, no? E non dico la nota lì, non so chi dire. Qua, ci sei tu, scusami, ci sei spazio, dov'è il neuromano? No, c'era lui fuori. Chi è che poi il neuromano? Sicuramente si trovano con la Y, no? Sì. Al molto si trovano con la Y, è una stupidaggine, perché si scrive cibernetica con la Y. Sì. Così, no, ma perché molti sono così, certo, non c'è qua. Allora, cyber, certo, se scrivi cyber in inglese, scritto in corsivo, va bene la lista, no? In inglese scrivono con la lista. Ma se scrivi il termine italiano, cibernetica o ciberspazio, mica lo scrivi con la Y, no? Sì, sempre spazio lo scrivo con la Y. Alcuni con la Y. Tranne, caro mia, che tese cacciamento, più sempre. C'è questa mania qua. Ma ritardo, sono cacciato. Allora, che cosa fa questo winner o winner? Riunisce un gruppo di persone a partire dal 1950, credo, e riunisce un gruppo di ingegneri, fisici, ma anche biologi e anche adesso tiro fuori gli appunti perché eccolo qua, no, lunga, addirittura, guardate un po', cominciano nel 1945 queste messi, si chiamano, e li mette insieme in un posto degli Stati Uniti che si chiama Massey, Messi, che si chiama Messi, no, queste qui sono le conferenze di Messi. Chi partecipa a queste conferenze? Abbiamo detto, partecipano fisici come Norbert Wiener, fisico-ingegneri come John von Neumann. Von Neumann è da molto tempo che sta negli USA, quindi si è già cambiato il nome, da Johannes se l'ha cambiato tedesco, se l'ha cambiato in americano, John, perché non è John. John von Neumann, diciamo, von Neumann è il vero inventore del computer dopo Turing. Turing fa la struttura concettuale generale, von Neumann costruisce l'architettura, sempre concettuale, ma un'architettura più specifica del modello molto, molto astratto ancora della macchina di Turing. L'architettura di tutti i computer sequenziali è quella fatta da von Neumann alla fine degli anni 40. Insomma. Von Neumann partecipa a questa cosa. Poi ovviamente c'è Claude Shannon, l'autore di questo libro che vi ho detto prima, sulla teoria matematica della comunicazione, e un biologo importante che è Warren McCulloch. McCulloch è, capite bene, che è di origine irlandese, perché c'ha un MC da davanti, Culloch si scrive C-U-L-L-O-U-G-H. Lo scrivo io perché sennò muoio. Irlandese, come il Macintosh, ma il Macintosh. Il Macintosh è stata una nuova novità, questo previsto Mac, però gli mette la A in mezzo. In queste conferenze di Messi, che si svolgono quindi fra il 1943 e il 1954, questa è la nascita della cibernetica. In queste conferenze viene discusso un quadro concettuale nel quale a interpretare i fenomeni del vivente come interpretazione, scambio e gestione di informazioni. Watson e Crick non partecipano a queste Messi conferences, ma assorbono le idee che stanno nell'aria, insomma. Poi certo, la loro è una scoperta tecnica particolare, soprattutto per una certa molecola, però diciamo, se non ci fosse stato questo paradigma dell'informazione, anche la scoperta che la molecola del DNA è fatta ad elica che si avvolge, avrebbe significato poco. Cioè, vabbè, era una fra le tante, diciamo, scoperte. È il paradigma dell'informazione che le dà significato. Dice, questa molecola è fatta così perché ha, e poi tutta l'attività del DNA, dell'RNA, il fatto che sia una molecola in grado di prendere una struttura, copiarla, che cosa copi? Copi certo una struttura organica, quindi degli atomi e delle molecole, però che cosa trasmetti? Questa misteriosa diciamo, sostanza, questa nuova misteriosa entità chiamata informazione in senso nuovo, informazione. Allora, questo è, diciamo, dal lato, come dire, biologia. Dal lato diciamo, ingegneria, ma perché c'è bisogno di questa? Vabbè, vi ho detto quali erano i due ambiti più o meno di ricerche militari dai quali si sviluppò questa idea dell'informazione. In realtà ce n'era un altro, ed era il campo in cui lavorava più specificamente Shannon, che era un matematico, ma era un matematico applicato, cioè non un matematico teorico, quindi lavorava all'applicazione della matematica. Allora, il problema, uno dei problemi dal quale parte Shannon, il quale tiene presente certamente anche i due ambiti che vi ho detto prima, cioè quello delle armi e quello della, come dire, decrittazione dei testi segreti, insomma, dei testi che hanno un codice non esplicito, insomma. Ma in realtà il vero problema da cui partiva Shannon era un altro, ed era un problema di tipo più ingegneristico, ed era il problema della trasmissione di dati attraverso delle linee di comunicazione. Linee di comunicazione che potevano essere già allora o lettere, il cosiddetto etere, cioè l'aria, lo spazio, per radio, per esempio, quando si parla per radio. Quando si parla per radio, se si parla a voce ci vuole l'aria. Se trasmetti delle onde elettromagnetiche non occorre neanche l'aria, perché si trasmettono anche nel vuoto. E tu mandi, cioè parli, la tua voce viene codificata e la mandi. Oppure, già allora c'è un altro metodo su cui trasmette informazioni, che era il cavo, no? Il telegrafo nasce con il cavo, cioè ci sono delle modificazioni nel campo elettrico di un cavo che vengono, come dire, mandate. Da prima, quando nasce il sistema telegrafo, c'è soltanto la possibilità di fare una modulazione molto, molto stupida, molto poco intelligente, cioè tenere premuto il tasto di tensione per poco tempo o per lungo tempo, quindi hai un alfabeto fatto di due soli segni che sono il punto e la linea. Ma dopo le scoperte di Edison si scopre che si può mandare anche la voce umana con cose più, non so. In entrambi i casi, sia che tu mandi dei dati in questo caso vuol dire per esempio una comunicazione umana, ma anche delle informazioni codificate in altro modo, non attraverso la voce diciamo umana, in tutti i casi le linee di trasmissione hanno un, come dire, problema, sia, chiamiamolo lettere, cioè sia lo spazio vuoto con o senza aria, sia un cavo attraverso il quale si trasmettono delle modificazioni di stato elettrico. In entrambi questi casi il messaggio che tu mandi è in genere disturbato da quello che gli ingegneri chiamano il rumore, il noise. C'è un rumore di fondo su queste linee. Questo rumore cosa fa? Altera la codifica. Se io dico casa, se io dico la parola casa, ci può essere un rumore che mi altera la mia prima A, e viene cosa, e può sembrare che abbia detto cosa. Ho detto sono stato a cosa, sono stato a che, sono stato a che. Può essere chi cosa, chiesa, possono essere tanti modi. Cioè, il rumore altera la trasmissione di informazioni, la comunicazione su questo. Allora, questo problema del rumore sulle linee di informazione, un problema che tornerà, perché vedrete negli anni 80 fu alla radice per esempio della grande fortuna dei frattali, perché i frattali offrivano un modo nuovo per studiare anche questo problema. Perché come già stato studiato, è uno dei problemi che ha di fronte Shannon. Quindi Shannon che cosa voleva fare? Shannon aveva bisogno di una teoria, perché di metodi empirici per migliorare l'efficienza della trasmissione della comunicazione sulla linea informativa ce n'erano già stati, non è che non ce ne fossero stati, ma mancava una, chiamiamola, una teoria generale che desse. E allora, diciamo, dove sta il contributo di Shannon? Il contributo di Shannon sta in questo, di Shannon e Weaver, ma insomma Shannon poi è la persona più importante, di quello che si ricorda di più. Il contributo di Shannon è quello di dare una definizione matematica di questa teoria della informazione. Adesso, siccome adesso non ho una lavagna, non posso scrivere la formula, io ve la scrivo ma in maniera maligna apposta, perché so che voi non sapete la matematica, quindi siete soggiogati, se vedete la parola logaritmo pensate subito che sia una cosa giusta, ve lo faccio solo a puro scopo terroristico, non per spiegarvi nulla, però non posso farlo perché non so neanche la lavagna. Però ve lo dirò lo stesso a parole. Intanto, per cominciare, la comunicazione di cui si occupa Shannon è una comunicazione discreta e non continua, ma questo non c'è nulla di male, perché in effetti è vero che qualsiasi informazione è più o meno discreta, insomma, no? È più o meno, cioè, si parla su un insieme di simboli, uno finito di uno verso l'altro. Questo vale sia per le lettere scritte nella scrittura, sia per i suoni di una lingua, sia per tutto mondo, per qualsiasi cosa, insomma, no? Diciamo, l'idea di Shannon è, diciamo, questa. C'è una lista di simboli che costituiscono l'insieme dei mattoncini base con cui costruire il nostro messaggio. Se pensiamo al messaggio scritto, sono le lettere del nostro alfabeto, per chi ha una scrittura alfabetica, i cinesi hanno una scrittura componentica, sono un po' più importanti, perché loro non hanno un simbolo per ogni suono, ma sono hanno dei simboli per cose più grosse, ma posso capire pure loro, perché anche loro hanno un numero molto più grande di noi, di simboli con cui denotano però già direttamente delle parole e non dei singoli suoni come noi. Allora, c'è questo insieme di simboli, no? Di lettere dell'alfabeto o di suoni del codice lingua. Se uno va a guardare un grande numero di enunciati, di sequenze di questi simboli, trova che ognuno di questi simboli si presenta su un grande numero di testi con una frequenza particolare. Questa frequenza non è altro all'inverso che la loro probabilità, no, è la stessa cosa, non è altro che la loro probabilità. Per esempio, le vocali E e A, in inglese come in italiano, sono due vocali che hanno una grande probabilità di apparire. Se dopo una lettera T io trovo una vocale A, come dire, è abbastanza probabile che la cosa sia. Quindi, dice Shannon, l'apparizione di un simbolo probabile dopo un altro simbolo non mi dà una grande informazione, mi informa poco, perché è quasi, come dire, scontato che c'era già. Dov'è che c'è più informazione? Quando arriva qualcosa che io non mi aspetto. E facciamo un altro esempio. Nella lingua inglese, nella lingua scritta inglese, la sequenza di segni grafici T e H è molto comune perché corrisponde a due suoni importanti della lingua inglese, che sono le due dentali D e F. Ecco, sono due suoni diversi, ma si chiamano entrambi TH. Quindi, se dopo che io sto guardando un testo inglese, se dopo una T trovo un H, l'informazione che mi dà quest'H è bassa, perché è ovvio, perché è molto probabile che dopo una T ci sia un H. Se dopo una T trovo una R, parlo sempre, diciamo, dell'inglese, l'informazione è un po' maggiore, perché ci sono meno parole inglesi, ce n'è ovviamente col TR, c'è tree, c'è trade, c'è treasure, però sono meno di quelle con il, diciamo, TH. Il numero inglese, in un testo, in un qualunque testo inglese, il numero di Z, THE, diciamo l'articolo determinativo che compare in un testo, è grandissimo. Quindi diciamo, il numero di H dopo una T è maggiore del numero di R dopo una T. Addirittura nel caso estremo, se dopo una T io vedo in un certo inglese, ma anche in italiano, una T per esempio, T domodossola, posso essere quasi sicuro che lì c'è un errore di stampa, perché non c'è nessuna possibilità nella lingua inglese e in nessuna lingua indo-europea di avere due dentali sconfiggiate successioni che sono locali in mezzo, quindi T e T una dopo l'altra non ci possono stare. Quindi so, l'apparizione di una T dopo una T è altamente informativa, mi dice che c'è un errore, è una grande informazione. L'apparizione di un H dopo una T mi dà poca informazione, è più scontato ed è già più probabile che ci sia. Partendo da queste considerazioni, Shannon e Wilbur definiscono l'informazione come il logaritmo dell'inverso della frequenza. Dicono c'è un modo di, c'è, esame, sì, metto un logaritmo o meno logaritmo di f o logaritmo di 1. Perché usano il logaritmo? Usano il logaritmo per una serie di ragioni matematiche, perché il logaritmo è una cosa molto comoda in matematica, perché trasformando operazioni complicate come la moltiplicazione in operazioni più semplici come la addizione abbassa la scala, quindi consente di poter rappresentare su una scala bassa dei fenomeni che altrimenti sarebbero molto difficili. È una ragione tecnica. Logaritmo dell'inverso della frequenza. Che cosa vuol dire che l'informazione è il logaritmo dell'inverso della frequenza? Vuol dire, se detto in soldoni, che un simbolo in una successione di simboli in una comunicazione, diciamo l'informazione portata da un simbolo è tanto maggiore quanto meno questo simbolo è probabile. Più il simbolo è improbabile, maggiore è l'informazione che porta, perché vuol dire che mi dice che lì c'è una accoppiata di segni che non sono probabili. Quindi vuol dire questo. Se diciamo il TH in inglese è l'H dopo la T è poco informativa perché è banale, è quasi ovvio che ci sia un H, ci sarà un H nella maggior parte dei casi, quindi sapere che c'è un H mi dice poco di più. Sapere che c'è un'altra vocale o una R o un'altra lettera o un altro suono mi dà invece una informazione, diciamo, come dire, maggiore. Allora, le basi ve le ho messe. Facciamo 5 minuti di pausa per morire, muore anch'io, e cominciamo alle 4:10. Questa volta fermiamo il registratore, così mi evito.